Hola. Sí, ya que. Pero. Luciano, Antonello. Ehi, ti sento. Non c'è. Grazie. Ehi, mi sto guardando la cagliata, vai. Yeah. Buona ricchezza. Dove? Arretre. Me. Anzi. Yeah. E deve dar rubia a me. E si viene la cagliata. Certo il mazzo se lo fa, che vero c'è? Hai visto? Se l'hai girata a Rai 3, a bada che belle montagne, con la neve. Eia, ti ho girato. Hai visto facendo il formaggio? Dire nella cagliata, il mazzo già se lo fanno però. Ehi, un bel travaglio, me. Guarda, guarda. Oh yeah. Smetto me la cagliata come un truccio. Eia ti arrivi tu che ha scorreggiato e tu hai voluto tu ehi col microfono l'hai visto all'aeroporto e mi ha truccio ma già se l'hai pushato che la moglie se l'ha fatta pushare ma non senti nessuno. A chi si ammazzava a buru con un fiato e va via un microfono in culo tutto l'aeroporto là in te guarda una mountain bike nel bosco la matta è sacca di nocchi inabilità lui mormito sì Luca. Dormito sì. No, che non sono dormito. Sono qua. Ma sei tornato nel letto. Cosa mi fai in piedi, va? C'è caldo, si sta bene. Capito mia. Eia, guarda lo scheletro con l'arco. E ti danno lì la freccia, Emmy. E Gianni Maria senti là. Giovane Basinevi mi da stanotti prepara di ricci vedi la polenta lui già ho visto si sta mettendo cavolfiore cavolo verza eia me ne sta facendo gli involtini. Assaggiala a vedere se è buona lui. Buona è lui. Secondo me ci voleva un pizzichetto di sale in più però, Grazie, a poco fa c'era Marino che stava chiamando. Stavo facendo cosa? Non l'ho sentito. Adesso mi sto guardando il canale Alfa 59 a caccia di orsi. A caccia di orsi? E orsi polari. Me, mi pare una vita, va l'ultima. Fissicato uno, uguale al mio quel fucile. Sì, mi raccomando il tuo. Uguale identico, solo il binocolo il mio è nero, quello è dorato. Per il consigliabile è sempre nero. quello da Zallucchio. A chi ti chiede di dire andami a più piso? Infatti, lo vedi, ha pigliato un canarino, ogni orso, bello, l'orso bruno, marroncino, Vai giù, già cuglienni, Dai, quello fosse vinto io, l'osso si era girato dalla sabbassa a grattarlo. E l'ho perso, lo fai l'orso, tu. Vengo io. Beh, a me dall'aereo, tu mi arruta. Hai visto l'orso, Luca? Adesso guardando io. E invece è bello questo. Ah vai, no, che sono pigliando il pesce. Sì. Pesce. Che bello. Cazzo, ma che bello. Crecchecca. Crecchecca, dov'è? Che bello. Ehi, gli ho detto, fai l'orso tu, che faccio io? Fallo fare con Maria. Giorni Maria è dormita, panza in asco. La stessa vita è diventata, boh, ti siamo finiti giù, boh. A chiesa, vai, dormendo in alto, non fai spino. La giù con un casco, la sta lì, sfrecciata, la butti butti. Ma era qua, bici, scooter lì. Perché arriva fino anche a Porta Torre, qua, vicino, poi torna indietro, senza problemi. Già lo so, già. Ha preso la riga anche la bicicletta di scorsa. O c'è che bucchia. Caccia le occhie, calibro 12 e calibro 22. Come che lo fossi di due? Io preciso, grazie. E allora, so che c'è anche la doppietta. Oggi non la sta usando la doppietta. Beh, le occhie, adesso la tira col calibro 22 e calibro 12. E chi porta l'arma lo finivo, mi Luca, abbai, due vicini, insomma, due ragazzine. Davvero? Mi una l'ha presa, ecco, una è caduta nell'acqua e l'altra no. Bella grassofella, l'occa. Stasera si cena occa. Occa? Occa di focca. Occa. Per farla tu. No, corse di pipistrello. Quella è la prima occa dell'anno. È vero. Adesso cacciano tutti, sono e mi rampano tutte le occhie. Che bello! Momito, Luca, la greca! Famore! Io non c'è andare con canale che sono mio fame! Complicando, sì! Illu! Sì, è che illu! Poco fa si è sentito Pomponio ed è caduto. Pomponio ha scritto su Facebook che preferisce quell'applicazione. Ha detto che è più bella l'applicazione. L'ha detto pure a me, però è ben logico lì, non c'è disturbo e niente, ti senti bene. Per forza, è come se ti stai telefonando. Appunto, che gusto c'è? Ma io l'ho già disinstallata, mi pare, proprio un mesetto già. Io già ce l'ho, qualche volta lo metto a ascoltare la mattina. Però a favità, no. Non è che mi attiri molto. Poi anche quelli, i continentali. Parlano cazzate proprio di merda. Grazie a Elvis, se vuoi il video che ti ho mandato. E quando? Su Messenger, quel video del tatuatore. No, adesso. Come fa? Se l'hai visualizzato? Io? Boh, adesso guardo su Messenger. No, su Facebook no, su Messenger. Meno deve mandare roba a Bucaccioni e chiedono una baita. Adesso lo sto guardando. Guardalo bene, guarda. Cazzo, ti rassegno le penne, ma che si sono cicchi, non c'entra nello centro. Non c'entra nello centro. Mi pare io ti rassegno di... una cosa del genere. Per il centro, ma si vedrà una litturina lì. Luca, ma non vanno bene gli auricolari del telefono per ascoltare in queste radio? No, ma dovrebbe andare bene. No, non vanno bene. Sì, grazie a te, quasi sono. Non ho mai provato io le cuffie in questo qua del telefono. Ma sanno di gambo, dimmi di se si incada di Zalbi. È vero. Tu l'hai visto quel video, Luca? No. Allora Luca, grazie. Aspetta che mi sto guardando di nuovo un altro pochettino. Non l'ho visto tutto. E che senso c'hai? Lunedì giorno quando zapparani. Vabbè, nascosto. Sì, no, che c'ho chi la segno, ma si sente il gabbo. Sentre tutti. Cazzo di tu aspetta che te lo mando. È vero. Ah. Luca, da Samona. Luca Flipper, famone. Luca Flipper, non mica te l'ho mandato. Arrivato, sì. Ancora quel video ti stai guardando, grazie. Ah? Ancora quel video ti stai guardando. No, adesso la TV adesso la prendo che mi preparo la macchinetta per farmi l'aerosol. Davvero. E allora? Luca! Ma che sta che freddo oggi che c'è? Ah? Oggi c'è freddo! Sì, me l'ha detto, ma stava mattina ci troviamo con la neve. Ho visto la TV un tempo poco fa. Tutta la Sardegna neve ha messo. Certo, domani devo andare via Zanfarino alla visita dell'oculista per il diabetone. Proprio domani ne va all'aria. Domani andiamo a sciare. E allora, già siano i giovani, io già sciato. Tu sei un giovanotto, ciao Luca, sei un giovanotto, grazie. Cosa già sciato? Sei un giovanotto, già va bene. E allora, lago scia al latte, adesso come in casa? A Calduccio no, via da te. E te sono arrivo, sta bene in casa a Calduccio. Oh lui! Luca, non ascolti. Luca, ma come è sotto le lenzuola? Luca Flipper sta cubicando. Oh boh. E allora, non so qui, mi ha tanti fari lì, e mi ci ha rubito. E allora, chissà che bomboccia. Giovane lui, grazie. Lui è giovane. E allora, l'altro è che mi preoccupeggia, sempre più bicchegni. Ma che lo faccio, fate peggio. Già che dici tu perché sei tu, da serpente. Da serpente, da serpione. Oh Luca, provato a cubicarti la pelle del serpente. Un boa. Luca, mi ascoltami. Ehi, a voglia Marì. Ah, no, sto usando il gomito su tua casa. E siamo in sopra, meglio così, e beh, sta bacchiando sta, no? Sì, poca roba, poca roba. E anche sto usando il gommino. Bene, come la siamo? Ma cazzo. Vabbè, questa cosa che il bambino ha piano di sopra e non ha bisogno di niente, capito? Sta dappertutto, la scusa è sono libero, già va bene per sopra. Vero, grazie. E aspetta, Luca Flipper, il portacenere della Super me l'ho dovuto comprare nuovo, si è imbuffato e si stava spaccando. Qualche giorno che sono lì, te lo faccio e me lo sistemi, se lo sai sistemare. E in che senso me lo sistemi, grazie? Sei imbuffato? Boh, non lo so, si può saldare a guisa quello. Siccome si è fatto dondolino, quello lì perché si è imbuffato al centro, dove ci sono i furi, no? E qui si stava spaccando. Hai capito? E dunque non funzionava bene la tuba, perché dal tubo di quel buco che c'è che spiazza l'aria della ventola, stava, veniva male, me l'ho comprato nuovo. Capito? Adesso già va bene la tuba. Però quello, secondo me, si può recuperare. Sì, ma sei chiusa, no, grazie. A meno che non ce ne metti un altro dentro. Capito, lasci i bordini, tagli i bordini, lasci i quattro angoli e ci metti un altro, una piastrina di ferro, capito? Gliela butti dentro come nella mia, no? Sì, meglio di ferro, l'avevo già fatta una cosa del genere, al centro. L'avevo spianato qui su bombisco la molesta, l'ho riportata in piano. Perché ce l'ha imbuffata, all'ingentro ce l'ha spaccata e mi mancavano un paio di bici. E avevo messo questo pezzo di piastra, adesso non so da quanti millimetri era, di ferro con i buchi. E beh, poi l'indomani quando sono andata a pulire la stufa, era mezzo bucio di ferro. Guarda, io c'ho quello che avevo fatto appunto per il nocciolino, l'ho fatto mezzo centimetro di spessore, avevo fatto tanti buchi e l'ho buttato dentro al pentolino, capito? Pure non si è mai bigiato, non si è mai rovinato. Vabbè, chi c'era mezzo centimetro, no, quello che avevo messo io era più fino, beh, adesso non lo so qua, quanti millimetri era. Ma io so che c'è anche la saldatrice a ghisa, che salda la ghisa. Boh, non lo so, so che è un casino saldarla la ghisa. Comunque quello mi ha detto, quello succede quando non metti, il pellet è buono, quando metti, ma pensa ti fa quel difetto lì. Eppure, boh, allora i sabetti che rubilleni l'ha misciato, lo sanno i giochi, boh. Non lo so. Guarda, io lo sto prendendo a mia suocera qui alla Budibuti, 519 Faggio, e scalda, guarda, tantissimo. Cosa fai, Luca? 519, ma è Faggio, capito? Hanno sia il Faggio che l'abete allo stesso prezzo. Ma da mia suocera, perché io vado a nocciolino che mi costa 5 euro e scalda molto di più. Però da mia suocera sto prendendo il Faggio. Ma come ti vedi, stai crescendo, stai troppo attento a quanto c'hai, come ti vedi? No, ho capito. Come accendere, quanto c'hai, come potenza, quanto è? Ma è Faggio. Sì, l'accendere, c'è sempre accendere, no? C'è la casa, non si vede, non si, e così via. E poi c'è il di potenza, no? C'è la casa 7, la casa 6, la 5, 5 la cosa. Da quanto è quello che stai prendendo per crescere? 5.2 di chilocalorie, è buono, è buonissimo. Allora con la cena non sono ricordo, no? No, aspetta, ci guardo se trovo un sacco, boh. Ma dove la Budibuti? Quello come dei fiori, quello dopo la cena o no? No, prima, quello prima. Ma proprio di fronte alla proprio la cosa, ho capito. Come c'ha tutte quelle stelle, vuol dire? Sì, quello ce l'aveva a 5 euro e poi l'ha aumentato a 5,19, come c'era quel freddo brutto l'ha aumentato, capito? Come tu, adesso domani non ce l'ha fatto, giovedì mi avvicino, vediamo come è tutto qua. Una cosa mia, se non c'è, non c'è cioè almeno 04 e il giro alla cosa non scalda, eh. Non scalda. Io ho fatto la foto a prova, è mia mia, e quella di un giorno, io metto un sacco, io metto il sacco molte volte, capito? Se con quello che acquista, invece mettendo quello da 04, come cenere, è quasi nulla, poco parla, brucia tutto. E con la cia di io, guarda, ho detto parlo, io sono una lettina a casa mia, una lettina, quindi la cia. Certo, dipende da come sono stati registrati i parametri anche. I parametri dei fumi, della coclea, sono tutti i parametri che bisogna registrare bene, se no non ti funziona mai al 100%, capito? Esatto. Se ne vede, grazie, avanti. Ehi, no, a me ce ne rimane va di poco, questo quello che prendo, ed è a bestie. Legno la bestia, a bestia, e cenere ne fa poco e niente. E non sono stato in sacchi, l'ho preso, al bricolo. A bestia plus cenere 0,4%, come chilowatt 5%, va benissimo, insomma, va benissimo. Io usavo quella 5,2, ma 5,2 ormai non ho più trovato in giro, perché mi aveva le mani si hanno aumentato quasi un euro qualcosa in più, e lui le mani se lo mangia adesso, avanti. Io l'ho preso lì a Giacamanna, dove c'è quel bombolaio, prendendo lì sì, lo prendo a Bricome, o anche all'Eurospin, sempre quella bestia. Io non lo guardo adesso la bestia, guardo anche i fumi, capito le cose da cenere, grazie, capito? Non devo dire molto, forse da te si è staccato, lo posso accedere anche perché lui dice, come vede, la bestia lui, magari la porcheria, mi schiatta, e da nessuno se lo mangia prima, capito? Io sono già naturale, mi va bene, per la sua famiglia, non tutte sono precise, no? Ognuno cambia, avanti Luca. Ma infatti. No, io questa qui la faccio andare sia a pellet che a nocciolino, capito? Però il 99% va sempre a nocciolino, capito? È così che mi trovo non bene di più. Cenere ne fa anche meno del pellet. Ma l'hai preso nocciolino di meno costa, Luca? Se costa di meno. 4,50 alla Sidernet. Ce l'aveva prima anche Bricomen addirittura a 2,50, 3 euro, 3,80, adesso l'ha messo a 5 euro Bricomen. Quando è andato il freddo l'avete conosciuto, guarda, adesso ti racconto un fatto dei matti, tu sai io dove lavoro sono obbligato a passare anche dei matti. L'anno scorso a tutte le tasse, volevo dire, quel cane nuovo, il trattore, da qui si sta cercando a pelle, cercando. No, ogni giorno c'è anche il nuovo, sempre c'è anche lì, c'è anche il capannone dietro, no? Io c'è anche vicino a fuoco, ma non c'è più, e la presa lì il capannone dietro. È tutto a pelle. È andata una cognata a chiedere dalle cose di fare che non aveva. L'ha terminato e sta arrivando, poi l'ha arrivato, ma lì è un bugiardo, guarda. Allora, l'ha arrivato ancora il prezzo, non lo sapevo. È andato, c'è un tempo, e l'ha fatta 5,80, figlio, l'ha aumentato la domenica, l'ha aumentato. Perché ne approfitta, non vedi, sono in malafede, cioè. Pensavo io, a pedale, lì. Mi chiama da posto a casa, che ne faccio da una posto a casa, anche io posso venire e mi ricarico con i distacchi in macchina, con i distacchi, ma con niente per il via. Lui ha tutta l'estate cercando a pelle, e mi dice oggi, anche ieri cercando di cercare a pelle. Guardate, perché io non è vera, sta, no? Tutto per aumentare, capito? Già è poco fuori in tanto altro. E poi quello se lo mangia lui adesso, tutto quello che c'ha. Avanti, grazie. A chi fa tenere i lombi, come si vede, ne chi fa freddo, che la gente andava a ricerca delle belle, ci hanno messo in un bricio, sono lombi, sono tutti così facili, per carità. È vero. E allora, beh, grazie a tutti. e io mi dico ma te ma da poi che se li rimani se non lo vendono se lo vogliono io mi ho tutte le casse per che io angelo e tu scusa e tutti questi camion andate voi la mattina così Marino ma il microfono in bocca ti sta entrando sta dicendo bene la sentita tu vada a fugare via tu dai se no tu sei un incendio non lo sapete di noi ti stava parlando Graziano. Graziano, ma non lo senti a Marino? No, non lo sentivo più, l'ho sentito l'ultimo pezzo tutta affogata e non ha di compreso nulla. Tu devi essere arrivato, non lo so, dove lo faccio? Non te lo mettere vicino troppo alla bocca, se no non riesco a capire cosa dici. Ma io te lo faccio apposta, non lo capisci nulla, Graziano. Sì, a Marino non lo sento, se t'altra. Adesso ti senti un po' bene, ti hanno cazzicato, Mario. Stavo due muletti, hanno ritornando, una cosa sua. Come mi sei venuto, ma adesso ti dai giù a lui, vai a marcia, mi ha detto, la caduta, va. Avanti. E chi era? E Mario, di Angelo. Ah, Elia. No, io lo prendo il pellet, Elia. A Giacomona mi mangi in gamba e sta insomma per andare alla motorizzazione sulla destra lì dove c'è quel bar alle vele no già lo so vecchio già lo conosco e faccio io non faccio la polizia vedi anche le bombe già lo so avanti Luca ma io non ti sento bene Mario c'è Luca che non ti sente bene Graziano non ti sente bene ma io ti sento sempre bene nonostante sono un gommino. A momenti lo sento male perché ce l'ha avvicina troppo alla bocca. Guarda io ho le... No, qua proprio arriva. Fermo. Come mi sento adesso, grazie. Adesso già ti sento bene, ma poco fa ti sentivo tutto affogato. Evidentemente ti sei avvicinato troppo al microfono. Lo volevo mangiare, grazie. Ma lo volevo mangiare, capito? Avanti Luca. Allora, anche ti sentivo affogato al caffè. Tutto lui, stavo capito di Grazia, tu che pittore hai fatto la tua signora? Beh, riprendetevela voi che io nel frattempo mi preparo la macchinetta dell'aerosol. Avanti Mari. Vai tranquillo Grazia, vai. Già siamo qua, vai, avanti Luca. Lu, come mai tu non lo senti? Strano. Oh, cazzo ne ho pochi su panni non la bocca. Luca. Signor Marino, ma senta Rosmarino. Oh, yeah, mamma mia, oh, yeah. Grazie. Grazie. Ehi, che ci fai qui? Preparandomi l'aria azzurra, con gale scendi. Adesso metto le gocce e appena arrivato quei peduti. Cosa? Che fine ha fatto Luca Flipper e Marillo? Luca Pinocchio! Luca Fino! Cristiano Pinocchio! La canna! Adesso 35 cc! E in vena, mi raccomando! E allora vai, va giù una siringa, un lago, saranno 4 centimetri. comportarsi queste facce no, come quella del video Lu. Tatuata. Ragazzi. Vi hai tu? Ti ha chiamato Graziano. Ma non è arrivato niente. Aspetta, lo mando io. Come non ti è arrivato? Non ti è arrivato. Te l'ho mandato poco fa. Dopo c'è scritto cattura e anche l'altro normale. Ora su Messenger lui. Luca! Bene, cari, aumentare il mondo. E beh, arrivato te, Luca. No, rimandamelo. Luca, arrivato te quello che ti ha mandato che fa il bambino. No. Che fa il bambino, non ti arriva. No. Adesso te l'ho inviato però, guarda. Luca! Sì. Arrivato sì. No. E che blu. E quello ti ha mandato Luca, arrivato. No. Antonio, lo vesti. E bello. Finito hai. E lei, e Laura e Bisani. Bisano che sul rabu. C'era l'amico tuo, c'era. E chi? Quello che sta sempre cubicando. Luca Flipper, mia Gio Maria. Chi c'è? E Feli Mani, e Feli, cos'ha? Una ruccia di cosci di pollo. No, Rubani non va a rovennare. Allora, ruccia di cosci di pollo. Ehi, cosci di farfalla, mi pare, a ruccelli. A chiedere di quasi troppo un pollo. No, no, la palla, la polla, no. Il pollo mi piace. Ehi, il pollo, pollo, a chi sei? Risponde a Gio Maria. Non fe, non fe, va. E fede un fuoco. Vagognoso, e si fa faccio il ruglio, Cazzo lo fa, se lo fa di biggi, cazzo lo fa. No, non te la posso mandare, cioè, vedi, visualizza, condivisione. Prova a vedere, E beh, quella parrucca piace il cartiere, grazie. Quale parrucca? Quella che ti ho mandato. No, non ti ho guardato, mi sono capace di nitica, caspita, non te la posso mandare questa. Ma cosa stai usando? Importatele. Ehi, ci avete fatto. Allora, dagli amici, va bene? Cosa? Che fine ha fatto? Che subissino minori? Oh, c'è quel tratto là! Ah, c'è che ho fatto se? Oh! Deve essere che sei tracato tutta la voce! Rimane la gente, di come io ti ha salvato non so cosa dovevi fatto. Oh. Ehi, mi ha salutato e ha sarrato. Allora, c'è a vedere, no? Che cosa? Ma tu dove me l'hai mandato? Su WhatsApp, sì? Cosa? No, su WhatsApp non ce n'ho parrucca. Vabbè, la domandata non vengo più. No, che non posso. Luca, a chi sei? Beh, chi ti deve essere sul ragazzo tra i manti? Chi si sei straccato e se ne è andato? Allora, strumento se. Cos'è che puoi mandare? Io mandatela. No, non fa, non può, non fa a condividere. Ho provato però non fa, perché un baita. Questa non fa condividere. Aggiungi continua. Non fa. Luca Marmito sei! Avanti? Chisio? Beh, vado bene. Beh, Graziano. Salve le voci. Ti lascio un sorto. Boh, tutti spariti sono. Luca, deve essere che sta entrando sotto il mio muro. Chisio ci sarà entrato nella vaschetta della comunicatura. Boh, Marino, stai mangiando il tubo di salsiccia. Marino è quella moto zappa sotto l'albero ed è moto zappese al luce di faro. No, mentre te senza far niente. Vabbè, c'è chi se lo può permettere e c'è chi no, è un male. Chi tu è? E prendi un fuoco, barocchi i cuoci di pollo. Là, tu sei mai niente, la faccia a fuoco, che è rimasto un pezzo a mezzurino. A me mi pare che sono coscienti di gurombe, che si gurombe che bisogna vivere in un campo sportivo. E non è così, dai. A chi mi pare non può corrisettiste. Chiama è bello invece, adesso c'è, chiama è bello. No, è sotto a rimanti, al carduccio, giocando al dottore. E beh, Graziano, buonasera a tutti quanti. Ciao Marino, e beh, ma sta già passo, vai. Marino. Sì, non era Marino, dice. Ma sei Gio Maria. Ma non lo senti a Marino, Gio Maria? No. Non la sento. No, non lo senti. Se ti sento io, tu non mi senti. Hai permesso? Anzi, sei al Bacchisio. Adesso già l'ho sentito. Mi senti, Bacchi? Bacchi, e io faccio serio. Io. Buonasera Marino, buonasera Gio Maria, buonasera anche a Graziano. Avanti, Marino. Sì, buonasera Gio Maria, buonasera Graziano, buonasera anche a lei, siamo Bacchisio. Lanciamo tutto il micro, signor Graziano, avanti, cambio. Sei parlato sopra Marino. Gio Maria non ti sente, dunque ti calpesta. Gio Maria, come mai non mi senti? Ma non dipende da me sicuramente, guarda. Gio Maria. No, non ti rispondo perché non ti sente, Marino, non ti sente. Vediamo Graziano se ti ascolta. Graziano, avanti. Eia, ciao. Ma sì, già lo senti a Marino. Gio Maria. Certe volte lo sente, certe volte no, perché col gommino in cameretta, capito? Bravo Grazia, bene ma sei tu che mi difendi. Ah, col gommino sta andando. Arriva dopo la scala qua. Il posto di cosa arrivi? Di Graziano. Capito? Col gommino. Avanti, Marino, l'ascolti tu, Graziano, sì. Graziano, ascolto, forte e chiaro, anche Gio Maria, un po' disturbato, ma io l'ascolto. Gio Maria, non hai l'ascolti. Avanti, Graziano. Marino, perché in cameretta col portatile c'è il gommino, capito? A volte si sente quando è nell'altra camera, però dove è adesso? No, non ti riceve bene. Io sono con Romino e sono tu a casa, boh. Non lo so, strano, ma chi già arriva tutto sparato? Tu arrivi tutto sparato e Gio Maria arrivi, lo sente, sì, un po' lo vorrebbe, però l'ascolto bene, diciamo, dai. Bene, avanti, c'è un Bacchisio. Ehi, aspetta, adesso faccio un passaggio col gommino, non posso mi ascolti col gommino, Dai, lasciamo qua, lui, dai. Domani faccio i neve, Marino, e lavori. C'ho le cose io, c'ho, come si chiama, il casellino, c'è la macchina, già cammina con il casellino. Chiamano, vengono, mi prendono, capito? Attento, Marino, mi ascolti? È chiaro, siamo da chiesa, forte e chiaro, d'ascolto. Col gommino sto andando, col gommino adesso. Io ti ascolto bene, d'ascolto. Adesso stai a faccia, adesso accendo l'altro e tu mi dici se mi ascolti, aspetta che accendo l'altro io. Io dai, il tuo gommino ti ascolto. E a torre trovato là in mezzo alla Galafiori, basta. Cosa in mezzo alla Galafiori, cosa vera? Torre Squalo l'hai trovato. No, Torre Squalo non ci esiste più. Torre Squalo non esiste più. Si è mangiato lo Zarrone. L'ubilagna si era mangiato secondo me e dovrei avvalorare un più. Passava un episodio di bilagna, digitate e mi mangiate, se ne mangiato a Edu. Un fascista. E poi tu vuoi giù, non ti stavo parlando a Baracchino, non andà più, noi si più di radio. La finestra. Non ti mattanare un gabbo, non stai lì via a bussurarci un salvezzo, apri un balcone e sruppo di io. Ah, è nuovo nuovo, cosa ci butta la balcone? La balcone ci butta a te. Se è nuovo nuovo non funziona più, allora c'è la frebbe. No, domani smonto il microfono e rifaccio i fili nuovi nel microfono, perché quelli dello spinotto li ho già fatti. E l'up down, capito? Quel microfono l'up down. Gian Maria ne ha tanti microfoni. Se ne può regalare uno, Gian Maria. Cos'è, grazie? Ciao Gian Maria. Ciao lui. Sai cosa? Non mi esibi il microfono, giusto quello. C'è anche a Bacchisio. Riparo quello, cosa? Non mi interessa. Oh. Aspetta, aspetta, cambio l'antenna. Perché ti sento basso? O lui, un attimo che cambierò l'antenna, là. Mi senti basso adesso? Riprende, Bacchiccio la tiri. Ho quello che mi ha dato tu anche, grazie. Quello che ha il volume sopra regolabile. C'è anche quello, però mi serve lo spinotto. Dovrei andare ad Afusa a comprarlo. Però devo sapere anche come vanno attaccati i fili. Quello lì è l'MB40, il Mobicom. È un microfono amplificato, se ci riesco ad attaccarlo. Come si dice? Però non so la posizione. Beh, grazie. Indovino che devo fare, indovino. Si trovi la portante, poi una volta che trovi la portante hai trovato tutto. Devi trovare la stessa portante, come hai trovato tutto. E poi la penso, non si vuole salvo, non si vuole salvo. Grazie. Chiedo qualcosa, avanti le grazie. Eia, l'ero distratta, cosa hai detto, cosa hai detto? Ma se si è distratto, con il modo che la pacca asciutta. E ho detto, da lui che stavo dicendo, ci vuole un po' di c***o per farlo. Si deve armare di pazienza, si mette lì e fa le prove, fino a che trovi il filo giusto e poi va con il tango. Allora, io non mi ricordo esattamente, non mi ricordo, però, come si dice, ho dei fogli, ma di qualche anno fa, di qualche forse 20 anni fa, più o meno, e ho le connessioni che mi aveva date Antonio Riserva, dovevo cercare a casa, però non so dove sono andato a finire. Domani con calma controllo, se lo trovo lo copio da lì e aggancio quello, dai. Allora sì, è facile, hai le istruzioni già pronte, sì. Se no vai su internet, vedi un po'. Sì, ma infatti, se no do una controllata su internet, magari qualcosa c'è. Io ho Marino, mi sono messo la chiamata, Marino. No, niente da fare, non risponde. Io ho Marino, cambiato antenna. Ehi. Ecco. Bene a farla adesso. Se vai bene, lo vedi. Adesso va bene. Va bene. Quindi è con tutto, Marino. Ciao Mari! Giormari, mi sembra strano che tu arrivi bene da me e io non ti arrivo, strano, Ti sento come con la voce troppo grossa e non capisco lui. Sono lontano, guarda che sono lontano dal microfono, guarda un po' adesso. Forse la radio mia allora, grazie, a me lo senti tu. Io lo sento bene, a te, a Luca, a Marino e anche a Battista. Io lo sento bene a tutti, la radio mia è nata la banca, cucata. E manco dritto e io già in bagno metto dentro il gabinetto ed è sempre chiede e non dite dove è, cosa vuoi ti dica io? Io ti ascolto bene Gio Mari, chiaro, forte, non so cosa dirti, ma chiedo tu bene mi ascolti. Mi sei messo sotto casa, mi sei messo sotto casa da Luca, fortissimo, in Boscala, ti ascolto bene. Super bene. E allora, il problema è Gio Maria, non sono io. Io lo ascolto bene a lui, lui non mi riceve bene. A Graziano bene lo ascolti, Gio Maria. Già, sento bene, sia a Macchini che a Graziano. La tua è troppo grossa, ma è forse la ricezione mia, capito? Molte volte io ti sento perfetto, forse magari sì, rauco, non so, come quando uno è rauco che parla così, capito? Ecco come ti sento, e molte volte non riesco a capire ciò che dici. Rauco sono da te, prova, non so, rauco non sono rauco. E forse ti metti troppo il microfono vicino alla bocca, prova a distaccarcelo. Hanno Luca, è GT3, mi portati dentro. Mari. Ma l'hai sopramodulato a Luca. Io ho rilasciato a Luca, non a te. Cazzo, io ti rubetto il cilindro, cazzo. Vai in pressa, cazzo. Vai, Luca. Forse ha cazzicato a te, Gio Mari, non a me. Perché tu sei più vicino a lui, capito? Che è chiaro che mi scaccia. E la rugriglia. Dalla parte la bruva. Due facce, cazzo. Ho detto, Gio Mari, che Luca sta usando il GT3, il portatile. Cosa dici? Allora se lo metto troppo vicino alla bocca, magari. Io lo sento così, capito? Ecco, tutto lì. Niente di poter di uscire, magari a voi arriva bene, a me mi arriverà forse la ricezione mia, che è così, capito? Poi c'è la ricezione mia. Può darsi. Non stai usando quello, Luca? Sì? Cosa? Stavo parlando in verticale, dimmi. Stavo usando il GT3, quel portatile, no? Eia! Eia, e invece Macchisa sta usando quello dell'autovelox. Io sto usando il GT3 stesso. Io sto usando il GT3 stesso. Vabbè, sto usando un Graziano. Cosa stai usando tu, Macchi? Vaufen 5 watt. Ah, il Baifeng, ce l'avevo io il Baifeng nero e me l'ho venduto. Ma l'hai fatto? Io, il nero, e c'ha il tasto, devi cambiare la frequenza al rosso. Ma ne ho un altro che della GT, però non lo so, GT2 mi pare che è. Il boyfriend che me l'ho venduto, male, 26 euro l'aveva pagato, dagli cinesi. Sì, l'ha calcolato, il costo no, va. Vediamo Marino. Io si è mangiato lo solito, Graziano. Non vai a cacciarlone, usciti da lì in cucina. Luca! Luca sta parlando in verticale, Graziano. Avanti, Gianmarino. Ettore, che non abbiamo. Non già abbiamo un paio di sere che non lo sento. Dov'è, in giro? Ettore, si è mangiato gli squali, i pesci, i piragna, è entrato a fare un po' di corso di cannolicchi, invece di trovare le cannolicchi ha trovato i piragna. Ah, ma mi sei andato a giocare a pallone invece di su. Anche che baracchino, eh. Così. E ti ha mangiato le squadre, le cose di piragna lo squalo, si era rotolato, rotto il gatto. E mi sono rimasti solo un fascio d'ossi, perché Graziano si è fatto un pettine da un lusso. Avanti, Graziano. A me mi pare che sei battuto una supposta a tutti ciò che è. Magari è il ciccalino. Dice ero bulma a villarsi e giusto a pigliare gli studenti. Oh, Graziano. Ehi! Sì che ti sento, basso di voce ma ti sento. Io che ti sento, come non ti sento, basso ma già ti sento, avanti. No, va bene, dai, noi ci ascoltiamo perché siamo vicini, ti ascolta anche lui Coto. Graziano, Gian Maria non risponde all'appello, Gian Maria. Dimmi, ma chi? Luca, non lo senti? A chi? Luca, non lo senti con l'altro baracchino? Prova lui. Boh, io lo sento, No, lo sento. Sì, Luca, ti sento, però ripeto, è grossa, la voce è grossa, cazzo. Anche con questo. Io ti sento così, forse l'apparecchio mio, va. Deve essere la colonnina mezzo partita, deve essere. Boh, però gli altri li sento meglio e chiari, capito? Così che, strano, Tu cosa vuoi? Marino, a zappare è andato, Marino! Che carai? Marino, doveva essere la moglie e le piglie la colpa giù da capo! Guarda, Marino, come ti ho detto io, grazie! Quello sotto all'albero, la moto sega, ma guarda, la moto zappa! Si è fermato perché sta piovendo, allora, e si sta riparando sotto l'albero. Ma si può fare la regolazione del microfono qua? Niente ne sapete. Cos'è lui? Ho detto, si può fare la regolazione del microfono. Ah, adesso ti ho capito bene. Ho detto, si può fare la regolazione del microfono, non credono. Cosa c'è che ma c'è chi? Ma ti ho sentito sempre bene, oggi ti sento strano, Ma ripeto, ora forse dalla colonnina mia, però a momenti ti sento bene, a momenti no. Beh, Gio Maris, allora li senti bene, a me mi senti strano, non dipende da, non lo so, forse ti arriva troppo forte, cosa ne so, Quella voce è troppo grossa, magari non si capisce bene, non è chiara la radio, ecco, così la sento io. Magari invece gli altri ti sentono bene, deve essere dalla colonnina mia. Sì, ma se a loro li senti bene, non è dalla colonnina sua. Vabbè, comunque. Cosa c'è, che boh. Ma chi riprende? Io. No, ma io l'ascolto bene, sempre il solito Luca, sempre il solito. Non ha cambiato niente, non ha peggiorato né migliorato, sempre lo stesso. Arriva bene qua, forse perché siamo più vicini. E anche Graziano è più vicino di te, dunque l'ascolta benissimo. Solo voleva vedere con Marino, vedere un po' come arrivava giù da Marino, ma Marino non si sente. Marino? No, Marino nulla. Ho andato a fumo. Avanti, Gian Maria. Tu hai affaccendato, deve essere Marino, se no avrebbe abbagliato, ma mi sembra che è già fatto. Grazie, ripigliati tu la patata calda, dai che hanno bussato qua, vado a aprire. Eia, forse non lo sente bene perché Luca è qua giù, lui è lassù, dunque siamo in salita, lui. Forse perché sono in salita gli arrivo un rauco. E allora ti passa i loghi, gli do qualche caramella di lì, all'anice, E ho al mentolo e sentirà bene, E se vuoi caramelle tieni dopo e ti sotterro anche. Boh, non lo so a chi ti intende male, io ti sento bene. Marino ti sente bene, Marchisio ti sente dentro un capolafiore. E vabbè, comunque caramelle ce ne sono, a voglia, la frutta, la menta, la liquidizia, come le vuoi. La menta. Ma ci sono, dico, abbiamo, se mi voleva dare le caramelle, ma è pieno qua. È pieno, da meno. Più rimani e più finne. Vado una scatola di datteri, non che da nanzi. Ieri non ho mangiato, oggi non ne voglio mangiare. Beh, per i datteri sono gli fichi secchi. Avanti, bacchi. I datteri. Vai alla palma dei raccogli, i datteri. No, ma sai cos'è lui? La modulazione tua, forse il timbro di voce tuo che è così. Io non riesco a capire come ti ascolta male. Mi sembra sia il tipo di voce. Ogni persona ha un timbro diverso da uno dall'altro, non si assomigliano tutti. Il tuo rimane un po' più pesante di quello del mio e di quello di Graziano. Allora, la tua rimane lo stesso, bassa come modulazione, non è forte, capito? Dovrei aumentare il volume ogni tanto, perché siccome quando parla grazia lo devo abbassare, se non disturbo qua. Non so se dipende dalla tua radio, Dovrò essere la mia radio allora, oppure della mia voce, perché... diciamo così, questo qui sta uscendo con 10 watt, ma 10 watt non ne dà neanche, io penso non ne dà neanche 2. A meno che non ti devi fare garismi, macchi. Guarda con questo adesso, come mi ascolti. Luca, con portatile come mi ascolti. Adesso è più forte questa. Sì, un gommino. Arrivi benissimo qua a fondo scala, sì, no, cambia, Non cambia, non cambia una virgola. Graziano, avanti. Ah, io ti sento bene, anche con questo. Come poco fa, anzi, forse più forte mi sembra questa. Comunque stai uscendo abbastanza bene. Sì, vediamo un po'. Gian Maria, avanti. A Gio Maria gli hanno bussato la porta. No, vabbè, grazie, io lo ascolto più, come si dice, più alto di radio, dai, confronto all'altro, molto più alta questa qua, così non sto con il volume, alza e abbassa, quando parli tu arrivi più forte e lo devo abbassare, capito? Perché la tonalità della voce, io sto parlando anche, ho tutto il braccio lungo e sul tavolo la radio è cucca da burro, non è neanche in piedi. Ho capito, l'ho capito. Un toccato è più forte di quello là, guarda un po'. La cosa di fare l'operazione è il tiramento di collo. Marino, ma sto zappando, sai? Marino? Marino, ma domani in campagna a fare i barchi, domani va a tirare i fili. Andiamo in scia, si fa l'imparata, mi pongo lì dosi, in scia e arrivo anche in campagna, grazie. E poi ti fai la slitta, le rugane, ti fai tra i pulcani, assata. Sì, si può fare, sì. Sono due cani che stanno in voce a casa dei pantaloni. Già trai, leggiali. Sì, una volta puoi trascinarmi, ti vedo fatto dei puri. Costruisci uno slittino o pigli un cofano di macchina, di chi si abbombe, immaginate ti vai a trecciare. Una cappotta di macchina anda meglio. Allora che tipo di macchina anda bene, la cappotta della macchina a capo, chissà tutto uno. E la moneta ti dà. Non li faccio, no, di Graziano, non ne fa niente. Se non può fare un po' poteva, un po' di grande, non ne fa più casino e tutto. Niente di strano che un pochettino la faccia. L'anno scorso mi sembra l'ha fatta, o 2 anni fa, ne ha fatto un po', non ti ricordo. Io ci avevo le foto che avevo fatto da qua sul terrazzo, tutto imbiancato era. E era verde, tutto bianco. Il campagna pure era tutto bianco, ma è durato una via, dopo si è sciolta. Nevi era il 56. Ehi, quando ci ho curato io, mamma me lo diceva sempre. Babbo, la Iana era cubaccata dalla neve, non si vedeva la strada. A chi noi stiamo in via Roma, un inviso di Ciccarinati, in Ghivigliosu, a Pianterreno, ed era più basso della strada l'appartamento lì. E chi veda bene, più alto di la Iana era, non si vedeva ancora, non si vedeva. Sta via Sarrato Trento e babbo ha fatto un tunnel. Io sono vedo se c'è il signor Gio Maria. Io sta di oggi alla Camera di Commercio, va per la Camera di Commercio, quando sono con la Dio che mi viene la via sta vita. Però finché sta per la doccia, dimmi, che c'è avevamo il cortile anche. Ed era che su bosso, tutto pieno di neve. Ma alta amico. Io sono curato proprio a Occi, a Occia, e dice, babbo lavorava lì alla Fiat, al centralino. E dunque c'è la casa entrava la Fiat. E già lo so. E dice che vede la neve, ti cubaccava, c'è anche una fotografia nel telefonino della chiesa di San Giuseppe dove sono stato battezzato, il giorno della neve, del 56, tutto imbiancato. E allora, se trova la neve, è piatto lui. E io ne vedo a Minnaggio in Guzzizio, a Bardonecchia, a Salice Nunzio, oh, da Minorete, da Manno Buru, e pure quando viaggiavo in continente con un camion, a voglia che Minnaggio mi ha schiccato, nevi, nebbia, ghiaccio, a voglia. Allora, c'era di tutto. Tutta quella zona, sta canta, a voglia, tutta quella zona lì che la conosco tutta. Ehi, altri tempi. Altri tempi, ma arrivia a Cinucci, ma arrivia da Ricchini, sono camminato, il ricoci era in mezzo alla neve. Era una cosa molto strana. È durata un mese, sarebbe durata. A Salice Dulce, a Bardonecchia mi sono rimasto 2 anni, sono rimasto. Io sono stato un anno e mezzo a Novara, neve, lo sai come si appugna, a Parati la rampava. E io ero proprio al confine dell'Italia, là, tra l'Italia e Francia. Salice Dulce, Bardonecchia, la gira di Rughi, oh yeah, però era bello. Me lo usa vai, Gigi. Bellarello, Bello, bello. Vediamo se c'è Marino, se Marino si è accialato dopo. Marino. Aspetta, Marino. Ha fatto la fine dello squalo. Avanti, Luca, riprendi tu. Mi sa che so... Sanna ci prende il telefono, Marino con Gio Maria. A me mi pare che Marino, la moglie, l'ha posto in mano, la moto zappa, gli sta rinfilando un K2 e ce l'ha mandata a moto zappa. Ma fagli il terreno è umido, Luca. Secondo me squalo si è fatto birichetta, che sola non ve l'ha messa. Secondo me è proprio oggi, quindi si può dire di casa. E allora poi basta ritirare le offerte. Ho un cabrino. E allora, però strano, fino a 15 giorni con la figliura, non hai detto che l'aiuta la figliura in figlia. Forse pure si è andato con la figliura, oppure quando è andato a vedere i cani si era rimagnato i cani. Strano però, suona strano, tu Luca non l'hai sentito, no? A chi? A squalo 2. No, secondo me non lo sento. Ho passato un'orca e l'ha fatto una vecchia. Allora fai un bandito la recce di buffo. Capito? Mi hai. Nascosto, il chef prende il negoziato. Allora si mette la recce di filmando che si vede un buffo, non c'è le fante. Va bene, si è prestato di poche parole. Dici la gioia, la bocca, sei brutto, lo devi chiamare ma fare il dai. Quando lo chiami dici, cosa c'è? Quando è comoda. Vero Luca? Cosa grazia? Storie di poche parole, lo devi chiamare ma fare il dai. E quando ti rispondi dici, cosa c'è? Ah, è vero, La regina dice, ma le parole, qua che è la pesca bisogna tirarsi lì. Già è vero, già è vero. Oh, se no si ridì, dici la tua, cosa hai fatto? E cosa ho fatto? Niente. Andare già. Grazie, andare. Ah vero, lo devi buzzichigliare per fare il da, se no si caglia molto. Che vagognoso, è vagognoso, fa visto che fa vita. Riprendi Luca, attacco il cellulare di Paoletta a caricare. Infatti non capivo se era il portatile o il cellulare. Vabbè. Dice che domani ha messo neve, ma poco vicino, ma non qua però. Comunque stamattina un po' di grande l'ha fatta, è messo mezzogiorno. Un po' di grande l'ha fatta, è bella grossa anche. La neve, oggi ha messo neve al centro Sardegna, domani vi dovessi si sposta. Vediamo le previsioni più tardi. Manca la temperatura, se non è bassa non attacca, non faggino. Freddo c'è freddo, però non siamo a temperatura di neve. per l'epicale dovrebbe essere intorno al zero. Più o meno sì, dai. Non attacca, ti scegli subito perché la temperatura è alta e non va. Graziano, finita di caricare questo apparato. Si è andato con la scusa di caricare il cellulare a Paoletta e se n'è andato, ha passato quindi il valore di dolore. No, che l'ha spento, l'ho atteso per vedere quanto ce n'era, e invece a terra la batteria gliel'ho attaccata adesso a caricare. Capito? Ovvero? Eia! Eiu! Era, era zero, muta, boh! Mi sa che la batteria andendi. Come avuto, grazie. Ehi, se vuole nuova, te la ordino, due di e arriva. Che telefono è, grazie? Il Huawei. Ma la batteria integrata, ciao, o l'Evilta la puoi levare? No, la puoi levare la batteria. E il mio, quello l'ho dato a mia moglie, io me l'avevo comprato nuovo. Come ci comprare nuova e dare a due su vecchio, bubu, ma chi? Bubu. E la lampada che non si via, è stata la moglie, è stata la lampada moglie. E come ha ridato il servizio su io e si occupa di nuovo. Guarda che è nuovo, nuovo, funziona benissimo anche quello. Se è quello che c'avevo io, è perfetto, funziona bene. È solo che lì non li vuoi, Facebook, questi cose così non li vuoi. Già non lo vuoi animare, quindi non li sa trattare. E allora dici, se vuoi ti torna a caricare l'altro. Ne ho 4 o 5 telefoni. Lo usa solo a telefonare, buh. Vabbè, ti sei giroso, sì, ecco perché non vuoi far mettere il giro. Cosa, dopo state a convinci là, a pigliarsi giù, visto che gli facciamo vedere come funziona. Tarvenello, lui ha detto, ti sbagli, metti il cazzo e da fa cruciferma, ti guardi un po' lì su Facebook, Instagram. E gliel'ho fatto vedere un casino di volte e ha detto non li piace, non li ha tutti lì. Vabbè, su Istanbul ci sono pure io. E io ce l'ho, però non ne guardo mai, qualche volta ha uscito il spoglio, ma non ha mai detto mai, pa. Ma chi sei su Facebook, ci sei tu? E io invece sono, devo essere che se ne hanno messo in funzione. Io sono tonto il mio telefono. Non mi ricordo da un momento all'altro come devo farlo funzionare. Devo pensare. Mi dimentico lui, mi dimentico, ma ormai non è la memoria di una volta. Sono pensato dei colpi. È facile, dai, anzi. Guarda che io sono tonto, lo mattessi, ma comunque. E chi che cosa gioco? Bernacca! Provo, riprovo questa che già verrà dice, però bene o male già lo so usare, là. Però qualche volta, un bel volte qualche cosa mi la dimentichi, però adesso già, per lo più già lo so come funziona, là. Prima che non sapevo nulla, là già ne so. E piano piano bacchiglia, prova, riprova già ti rimpari. Allora già riuscivi che al primo di moglie per riuscire a fare imparare. Andiamo bene meglio, dai ragazzi, io vi devo lasciare perché è arrivata l'ora per lui della divisione. Ciao Graziano, buona serata, saluti alla signora Paoletta, buona cena. Ciao Luca, buona serata anche per te, grazie della compagnia, saluta la signorina. A domani se coincide, Bacchiglio passa in due e ti prendi Luca. Ciao Bacchi, grazie, tutto contraccambiato, dai, buona cena e buon tutto. Alle prossime, anche qua mi sa che stiamo preparando tutto, dai. Avanti, grazie. Ok, ciao Bacchiglio, ricambiato al centro il tutto. E adesso chiudo anche io. Ciao Luca, ricambiato anche a te al centro. Buona cena, buon tutto, domani se coincide. Ciao Gio Maria, se sei in ascolto e anche chi è in ascolto. Chiude battenti, ciao. Ciao a tutti, buonanotte.